Allora, questa sera faremo un incontro di questo genere. Allora, abbiamo tutta la seconda parte del Vangelo di Luca ancora da fare, però, stando ormai vicino alla Pasqua, stando al tempo di passione, faremo così, facciamo un po' della seconda parte del Vangelo di Luca e poi andiamo, facciamo un salto alla passione. Poi il mese prossimo faremo la seconda parte, se Dio vuole, del Vangelo di Luca, e vedremo i racconti della risurrezione. Lo faremo con questo taglio particolare, come già abbiamo visto in qualche altro incontro che abbiamo fatto, quindi focalizzando l'attenzione sui brani del Vangelo che sono esclusivi di San Luca, quindi su quei passi, lo sapete che abbiamo detto tante volte, ci sono i Vangeli sinottici, quindi alcune cose sono in comune tra i Vangeli. Il Vangelo di Giovanni, come se Dio vuole vedremo l'anno prossimo, ha un percorso un pochino a parte. E ci sono poi i brani propri che ci fanno proprio capire bene la spiritualità, la prospettiva particolare di ciascun evangelista. I Vangeli sono quattro non perché il nostro Signore non c'era niente da fare, ma perché sappiamo che è soltanto la totalità dei Vangeli che ci dà la visione completa di Gesù e del suo messaggio. Chiaramente ognuno accentua, vedremo che Luca, abbiamo già visto negli incontri precedenti quali sono i temi a lui cari, io scherzando dico sempre, secondo me questo è il Vangelo preferito di Papa Francesco, perché la misericordia, i poveri, la guerra contro l'avarizia, contro i ricchi, insomma, quindi sicuramente scherzando, insomma, neanche troppo scherzando. Quindi vedremo queste cose stasera, ci prendiamo la prima parte, la prima mezz'oretta per cominciare a vedere la seconda parte del terzo Vangelo e poi andiamo a vedere la passione di Gesù secondo Luca, quindi cercando di cogliere le particolarità che l'evangelista evidenzia. Allora, cominciamo. Il punto di cesura tra la prima e la seconda parte del Vangelo di Luca è questo piccolo brano che adesso leggeremo insieme, che è la cattiva accoglienza in un villaggio di Samaria. Cioè, a un certo punto Gesù, dopo il suo grande ministero in Galilea, adesso lo leggeremo, dice che si dirige decisamente verso Gerusalemme e chiaramente per passare dalla Galilea alla Giudea c'è di mezzo la Samaria, fatta così la Palestina. Al nord c'è la Galilea, al centro c'è la Samaria, al sud c'è la Giudea. E qui succede il mezzo finimondo. Ecco, questo è un episodio esclusivo di San Luca e lo vedremo subito, insomma, perché no? Allora, cambiamo scrivania. Andiamo subito a vedere 9:51 e seguenti. Vedete bene alle spalle il brano? Si vede bene. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Qui ho portato oggi questo, se uno prende questo si diresse Gerusalemme, decisamente verso Gerusalemme, se uno prende il testo greco originale dovrebbe tradurre così: egli corroborò il volto per andare verso Gerusalemme, cioè fece la faccia dura. Dobbiamo immaginare che Gesù, adesso un po' l'immagine, avete visto gli eroi delle serie, fa il duro, dice adesso Gerusalemme, boom, adesso andiamo ad affrontare la svolta della nostra vita, quindi risoluto, fermo, deciso e coraggioso, senza paura. Sono piccole sfumature perché quando uno legge i testi originali qui si diresse decisamente dà un po' l'idea, ma se uno prende, insomma, qui corroborò il volto esterisen to prosopon, quindi in greco è esterisen, proprio ha irrigidito il volto, allora via, d'accordo, si è fatto forza, ha fatto la faccia da duro, ecco, vabbè. E mandò avanti dei messaggeri, questi si incamminarono ad entrare in un villaggio dei samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non vollero riceverlo perché era diretto a Gerusalemme. Voi sapete che i samaritani fecero lo scisma a suo tempo, cioè si erano divisi dalla legione ufficiale di Israele, adoravano Dio sul monte Garizim, mentre gli israeliti adoravano al Tempio di Gerusalemme in Giudea e stavano a litigare, d'accordo? Storie antiche, poi le abbiamo rifatte pure noi queste qua, noi cristiani, chi dice che la sede principale è Costantinopoli, sì, gli ortodossi, e noi diciamo che la sede principale è Roma, vabbè, lasciamo perdere. E allora dice, questo va a Gerusalemme, a casa mia ti voglio, quando videro i discepoli Giacomo e Giovanni, i primi della classe. Giacomo e Giovanni insieme a San Pietro, lo vedremo anche nel Getsemani, erano i tre prediletti. Quando San Paolo andò a Gerusalemme, disse queste testuali parole dopo che doveva andare a chiedere il mandato apostolico per andare a predicare. Dice: vidi Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni ritenuti le colonne, perché Giacomo è stato il primo martire del gruppo apostolico, il fratello di San Giovanni, ucciso sotto Erode Agrippa. Pietro era il Papa, San Giovanni era il discepolo prediletto di Gesù, l'apostolo vergine. Sono caduti Giacomo e Giovanni nello zero indiscreto. Quando videro i discepoli Giovanni e Giacomo, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Vendetta, tremenda vendetta, non ti hanno voluto accogliere inceriti, d'accordo? Ma Gesù si voltò e li improverò. Allora, qui vedete la sfaccettatura particolare. Chi era così tanto zelante da essere quasi fanatico? Era San Paolo, no? Chi c'è dietro San Luca? Cioè, questo è un episodio che ricorda soltanto San Luca, d'accordo? Per dire, lo zelo va bene, ma capite, il nostro Signore non ha tanto a cuore di incenerire tutti quanti, dà tempo alle persone di convertirsi. Anche lo stile, adesso però vedremo, che ha osservato Gesù, che devono osservare gli apostoli, è uno stile, San Francesco lo direbbe, di minorità. Tutti presenti, se ti sbattono la porta in faccia e ti cacciano via, dici grazie e arrivederci. Purtroppo, figlioli miei, oggi succede anche quando sanno benedire case, perché oggi qualche volta ti dicono non ci interessa, anche se suoni, quindi c'è un po' di esercizio da fare, così, così ci esercitiamo un pochino, no? Quindi è così. Allora, proseguiamo adesso. Questo era il primo brano. Adesso poi nel decimo capitolo abbiamo, li vediamo tutti quanti insieme adesso, lo mando, abbiamo la missione dei 72 e il loro ritorno. Allora, gli altri sinottici ci dicono che a un certo punto Gesù prende i 12 apostoli e li manda in missione. San Luca parla di questi 72 discepoli, soltanto lui cita questo episodio. Voi dovete sapere che questi 72 discepoli sono citati nella preghiera di ordinazione dei sacerdoti. Siccome Gesù, oltre che agli apostoli, mandò i 72 discepoli, perché questi 72 discepoli sono, diciamo, il secondo nucleo intorno agli apostoli. Voi sapete che un sacerdote è un collaboratore del vescovo, i successori degli apostoli sono i vescovi. Io sto qui, sapete che ogni tanto da questi incontri proprio, perché? Perché il vescovo mi ci ha mandato, io qui rappresento i vescovi, sono un suo collaboratore, io non ho la pienezza del sacerdozio, alcuni sacramenti io non li posso amministrare perché non ho il potere di farlo, non posso dare la cresima, non posso ordinare un altro prete, non posso fare, quindi non so proprio, capite? Ecco, non posso ordinare un vescovo, non lo posso fare alcune cose, perché il sacerdote ha una partecipazione vera al sacerdozio di Cristo, ma non piena come il vescovo. Allora, Luca cita perché 72? Guardate che Gesù non fa, dice, i discorsi fatti a caso, perché nell'Antico Testamento c'erano 70 nazioni pagane. Allora, capite? Ricordate sempre che Luca è la penna di Paolo. Paolo a chi ha predicato il Vangelo? Ai pagani. Quindi questo numero 72 indica simbolicamente la volontà che Gesù aveva fin da quando era sulla terra di portare il Vangelo a tutte le nazioni, compresi i pagani. Noi oggi non capiamo bene questi discorsi, ma dobbiamo capire che nelle origini della vita della Chiesa si sono scontrati San Pietro e San Paolo, perché c'è chi diceva: no, noi dobbiamo portare il Vangelo agli ebrei, chi non è ebreo dobbiamo prima circonciderlo e poi gli portiamo il Vangelo, perché Dio ha fatto una storia di salvezza con il popolo di Israele, quindi il passaggio per il popolo di Israele è un passaggio obbligato. San Paolo ha litigato col Papa, non bisogna litigare col Papa, ma ogni tanto, capite? San Paolo l'ha fatto, non esiste proprio. Cioè, il battesimo prescinde, certamente Dio nell'Antico Testamento ha fatto una storia con il popolo di Israele, ma venuto Gesù questo orizzonte si è allargato e non bisogna diventare prima ebrei e poi cristiani. Ecco, questo piccolo particolare, narrato appunto soltanto da San Luca, certamente è allusivo di questa realtà. Poi leggeremo qualche stralcio di questo brano. Oh, poi c'è la parabola del buon samaritano, questa la conosciamo tutti quanti. La parabola del buon samaritano, che è una delle parabole della misericordia, quindi del soccorrere chi si trova, ecco, in difficoltà, è tipica di Luca. Attenzione che questa ci aiuta a comprendere, ho detto questo è il Vangelo di Papa Francesco, quindi mi tocca citarlo ogni tanto. Tante volte Papa Francesco ha detto non basta che non facciamo il male, ma che dobbiamo moltiplicare le opere buone e le opere di misericordia. Cioè, se uno vede, legge sta parabola, ve la ricordate, no? C'è sta questo disgraziato che l'hanno gonfiato le mazzate, c'è qualcuno che passa, lo vede e dice fa finta di non vederlo, e c'è qualcuno che invece passa, lo nota e si ferma, lo medica e lo porta in ospedale. Ecco, quindi quando facciamo l'esame di coscienza, anche qui non ho fatto niente di male, dicevo a mio vecchio padre spirituale, questo lo racconto sempre, un gesuita, primi anni di seminario, un gesuita che poi San Giovanni Paolo II fece cardinale, uno di quei cardinali fatti per merito. Voi sapete che a volte i papi fanno i cardinali anche gli ultraottantenni, cioè quelli che non parteciperanno al conclave, ma gli danno un attestato di riconoscimento della, come dire, della meritorietà del loro ministero. Il mio padre spirituale del seminario quando era a Roma divenne cardinale in questo modo, padre Urbano Navarrete, adesso è morto, era un gesuita, e lui mi diceva sempre questa cosa qui: una persona dimostra che ha una coscienza che comincia ad essere molto delicata, quindi che è ben formata, quando sa discernere i peccati di pensiero, che non ci pensiamo mai. Vai a trovare una persona anziana o malata, dice: ma io come devo confessare? Sto sempre da sola dentro casa, che faccio? Ah, che fai? Chi l'ha detto che non pensi? Purtroppo noi pensiamo dalla mattina alla sera. I peccati di pensieri e i peccati di omissione. Non lo diciamo, uno confessa a Dio onnipotente con molti pensieri, parole, opere e omissioni. Cioè ci sta del bene che noi dobbiamo fare e non facciamo. Poi c'è un bene che noi potremmo fare e non facciamo. C'è anche un bene che magari facciamo, non lo facciamo malamente. Ecco, la parabola del buon samaritano ci rende un pochino sensibili, perché lo vedremo poi, il contesto, no? Dice: ma il prossimo, e chi è il mio prossimo? Capito? Cioè, prossimo. Poi un'altra cosa tipica del Vangelo di Luca, l'episodio di Marta e Maria. Questo è un altro piccolo spettacolo, no? Oggi faremo soltanto questa parte qui. Marta e Maria, conosciamo tutti quanti. Marta e Maria, a quanto pare, erano le sorelle di Lazzaro. Marta, Maria di Magdala, che si chiamava di Magda, non perché era di Magdala, perché era di Betania, ma perché aveva fatto il quartier generale a Magdala. Magdala era un borgo sottostante la città di Tiberiade. Tiberiade, dal nome dell'imperatore Tiberio, era la sede, era il luogo della vacanza chic dei patrizi romani. Cioè la vacanza chic è molto più che la Costa Smeralda oggi, capite? Era un po' la Pompei della Palestina, però era ancora più chic dei Pompei, perché aveva arrivato a Tiberiade, insomma, c'era un viaggio, insomma, non indifferente, c'era tanti soldi per permettere la vacanza a Tiberiade. Quindi Maria di Magdala aveva un giro, diciamo così, di amichetti di diletto, non era una prostituta, e come dire, di un certo livello, quindi gente proprio che i soldi non sapeva più dove metterseli, insomma, per far capire, no? Qui l'abbiamo vista la volta scorsa, la conversione di Maria di Magdala, se vi ricordate, la peccatrice che piange ai piedi di Simone il Fariseo, no? Che è stata identificata dalla tradizione con Maria di Magdala. E Marta era la sorella. Qui abbiamo Marta che servizi, servizi, servizi, e Maria che ascolta la parola. E Marta si arrabbia, dice: adesso poi dobbiamo cogliere alcuni particolari, adesso facciamo una carrellata, poi ci rileggiamo, tanto ci fermiamo a questa prima sezione. Poi c'è un trittico sulla preghiera. La preghiera è uno dei temi forti del Vangelo di Luca, un altro dei temi forti. Tra le parabole soltanto di Luca avremo l'amico importuno. Più avanti ci sono altre due parabole sulla preghiera che c'era soltanto Luca. Vedremo la prossima volta. Quella della vedova importuna, fammi giustizia contro te. Gesù dice: avete visto quanto prega questa? E poi il fariseo e il pubblicano, il fariseo che dice: quanto sono bravo, e invece sto disgraziato, via. E il pubblicano dice: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. L'amico importuno è quello che va a bussare alle 3 di notte. Sulla base di questo, non lo so, di notte o notte inoltrata, mezzanotte, adesso lo vediamo. Sulla base di questo Vangelo, però, la Chiesa, da antichissima tradizione, ha cominciato a valorizzare la preghiera notturna, cioè le veglie notturne. Tant'è vero che c'è un'ora liturgica del breviario, adesso si chiama l'ufficio di lettura, ma una volta si chiamava il mattutino, che l'ora migliore per recitarla è la notte. Infatti, quando facciamo le veglie da tutta la notte, la diciamo mezzanotte, perché in teoria quella andrebbe detta a notte fonda, prima delle lodi, quindi è la preghiera notturna, che ha una grandissima forza impetratoria dinanzi a Dio, perché capite, la preghiera è accompagnata dal sacrificio, perché se tu anziché dormire stai a pregare, o come si fa in pochi adesso monasteri, ma nei monasteri un tempo si faceva di più, c'era la sveglia notturna, tutte le notti si alzava alla metà della notte e si andava in coro a pregare il mattutino e poi si tornava a dormire. Insomma, tu tutte le notti dormi 3 ore, poi ti svegli, non la preghiera, e poi dormi altre 4 ore, è tanta roba, insomma, Ecco. Poi c'è un passaggio, questo lo chiamano i mariologi, uno degli apparenti brani antimariani, dove dicono a Gesù: guarda che c'è tua madre, beato il grembo che ti ha portato. E Gesù dà una bella rispostina, che poi vedremo. E poi ecco Papa Francesco: guardatevi dall'avarizia e dalla cupidigia, e la parabola del ricco stolto, di quello che accumula, dice: ah, adesso ha fatto una bella trippata, cioè che non hai piene di roba, adesso diamoci alla vita. E Gesù dice: stanotte si parte. Papa Francesco dice che le bare non c'hanno le tasche. Mo, dove la metti tutta questa roba che ti sei accumulato in questo mondo? Ecco. E adesso ce ne andiamo a vedere, però, perché un conto è parlarne, un conto è leggerli. Li abbiamo un po' introdotti, cambiamo scrivania e ce li andiamo a vedere. Allora, cominciamo. Allora, i 72, quindi, dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli e l'invio a 2 a 2. Poi il corpo, diciamo, del testo è uguale agli altri sinottici, quindi l'invio a 2 a 2, gli dice: dite pace a questa casa, non portate borsa, non portate denari, eccetera eccetera. E la cosa importante invece è che quando tornano, ecco qua, dal 17 in poi, questo è una considerazione in particolare che ci dice soltanto San Luca, molto bello: i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. La forza degli apostoli. Gli apostoli inviati nel nome di Gesù sono il terrore dei diavoli. Ogni tanto i ragazzini mi dicono: ma tu c'hai paura del diavolo? Io no, lui c'ha paura di me, non io di lui. Capito? Egli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Molto interessante questa cosa qui, no? Io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e sopra gli scorpioni, e sopra ogni potenza del nemico nulla vi potrà danneggiare. Bellissime queste cose qui. Chi è amico di Gesù e chi vive in comunione con Gesù non deve avere paura dei diavoli, perché sono i diavoli che hanno paura di lui. Ecco. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Bellissimo questo. Quindi, e che i nostri nomi sono scritti nei cieli, noi lo possiamo sperare se siamo appunto discepoli, come discepoli di Gesù, e se nel nostro piccolo collaboriamo all'azione apostolica. Ecco, non serve andare in missione, ecco, ma nel nostro piccolo dare la nostra piccola testimonianza. Ecco poi la parabola del buon samaritano, dal 25 in poi, no? Il contesto è: dice un uomo, un dottore della legge, si alza per metterlo alla prova, Dice, maestro, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, cosa sta scritto nella legge? Cosa vi legge? La legge con la L maiuscola, penso che ne abbiamo già parlato, è la Torah, quindi i libri fondamentali di ogni pio ebreo, dove già era detto tutto, perché ci stanno i 10 comandamenti, c'è il precetto dell'amore di Dio, c'è il precetto dell'amore del prossimo come se stessi, c'è già tutto lì dentro. E lui rispose, ha studiato, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, questo è Deuteronomio 6,4, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente il prossimo come te stesso. Gesù dice, non c'è nient'altro da dire, fa questo e vivrai. Ma quegli, volendo giustificarsi, dice, e chi è il mio prossimo? Perché c'era qui un problema, come dire, di interpretazione nel popolo di Israele, perché se vi ricordate, no? Avete inteso che fu detto agli antichi, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, Vangelo di Matteo, no? Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Quindi Gesù deve spezzare questo tipo di discorso, no? Dice, il mio prossimo è il mio fratello ebreo o i miei parenti, ma quelli estranei no, ecco. E Gesù volutamente fa questa parabola dove parla del buon samaritano, cioè un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappa nei briganti. Gerusalemme, ricordate Gerusalemme, qui abbiamo da poco lasciato il discorso della cattiva accoglienza a Gerusalemme, in Samaria. Quindi capite anche l'intelligenza degli evangelisti. Questo uomo scende da Gerusalemme a Gerico, quindi un samaritano dovrebbe maltrattarlo come sono stati trattati male Gesù e i discepoli. Quindi questo samaritano è l'immagine di quello che ha capito. Attenzione che è interessante, chi sono quelli che passano oltre? Un sacerdote e un levita. I sacerdoti dell'Antico Testamento e i leviti corrispondono al Nuovo Testamento, ai sacerdoti come me e ai diaconi, perché i leviti erano gli addetti al servizio del Tempio senza avere funzioni sacerdotali. Quando uno viene ordinato diacono, nella preghiera di ordinazione, sto ordinato anche diacono prima che prete, si fa riferimento ai leviti dell'Antico Testamento. Quindi quelli che dovrebbero essere più attenti a certe cose passano oltre, e il samaritano, che è quello che meno, capite che qui c'è anche un altro tema caro a San Paolo, d'accordo? Cioè che i pagani, che sono quelli che ne sanno più, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Questo ve l'ho detto tante volte anch'io, questo purtroppo è vero. Io da prete ho avuto molte più difficoltà con persone apparentemente o sedicenti vicine che con persone invece che erano state più o meno lontane. E questo vale anche per me, cioè il nostro Signore fa più difficoltà a parlare perché la persona che è vicina o si sente vicina, come dire, interiorizza una struttura psicologica anche se non se lo dice, dice io sto a posto, fondamentalmente, cioè che altro vuoi, capito? Non mi sta a sgonfiare, cioè io le cose le so, le faccio, le vivo. Questo è terribile, perché questo ci impedisce di camminare in conversione. Noi dobbiamo camminare in conversione, capite? Perché nessuno di noi è tanto santo che non ha delle cose da correggere, da migliorare, no? Ecco, vedete, gli passa accanto e ne ebbe compassione. Come sempre, andiamo sempre a vedere, io qui ho i testi originali, perché ebbe compassione va bene, ma 33 esplanchniste, in greco questo verbo è letteralmente ebbe viscere di misericordia, perché l'esplanchma è l'utero dove la donna concepisce e gesta un figlio, quindi ebbe nei suoi confronti un sentimento di misericordia simile a quello che ha una madre verso un figlio in difficoltà. Ecco per questo il Vangelo di Papa Francesco, quando parla della tenerezza, della compassione, della bontà, insomma, no? Quindi che queste cose, se ce l'avessimo un po' tutti quanti, ci farebbero molto molto bene, d'accordo? Sono certamente gradite assai al nostro Signore. Quindi che cosa fa? Gli si fa vicino, fa quello che può, gli fascia le ferite, versa olio e poi lo porta in una locanda. Si prende cura di lui e quello che non può fare dice: ti pago le cure. Va e anche tu fai lo stesso. Molto edificante, no? Andiamo veloci che abbiamo quasi finito nella prima parte. Mentre erano in cammino entrano in un villaggio, ecco, Marta e Maria. Marta la grande servitrice, allora, non è che qui c'è la diatriba, questo vale anche oggi nella chiesa, quelli che dicono: ah, bisogna fare le opere, ah, bisogna intervenire, bisogna lavorare, qui c'è la gente e dice: no, bisogna pregare. Allora, che bisogna fare? Bisogna lavorare, bisogna pregare. È chiaro che bisogna sia pregare che lavorare, ma il senso di questo episodio è questo. La prima cosa è sempre, questo piaccia o non piaccia, la preghiera. Perché Gesù difende Maria, dice: ma questa sono tante cose da fare, se mette seduta e sta a fregalorbo. Gesù la difende, dice. Quindi bisogna agire, però attenzione, bisogna agire bene. Perché Marta si preoccupa e si agita di molte cose. I verbi cristiani non sono preoccuparsi e agitarsi, ma sono occuparsi e agire. Non è la stessa cosa. Perché preoccuparsi vuol dire che io di una cosa me ne occupo prima del tempo. E agitarsi, vedete che tra agitare e agire c'è un ta di mezzo. Quello bisogna toglierlo, d'accordo? Perché ci si occupa delle cose e si agisce. Senza occuparsene prima e senza agire in maniera convulsa e disordinata. Quindi strafacendo, facendo troppo, facendo male, facendo in maniera nervosa o agitata. Questo vale anche per l'occupazione. Questo ci dovrebbe stare un po' di gente, c'è qualcuno del comitato, di chi organizza le cose, capito? Va bene, si deve lavorare molto, si deve lavorare bene, ma mai lavorare troppo e lavorare male. E sempre prima si prega e poi si lavora. San Benedetto avrebbe preso questo Vangelo e avrebbe fatto la regola di vita: ora et labora. Allora, i monaci lavorano, lavorano bene e lavorano molto, ma prima pregano e senza lavorare troppo e senza lavorare disordinatamente. Quindi questo è il criterio che i figli di Dio seguono. Andiamo rapidamente al capitolo 11, ci abbiamo la parabola dell'amico importuno. Se uno di voi va da un amico a mezzanotte, capite, mezzanotte, questi non c'avevano l'orologio mio, per me mezzanotte è ancora, mezzanotte sto ancora vivo e destissimo, sto ancora in iperlavoro, perché purtroppo vado sempre a letto all'1:30, la mia orario di dormita ormai è fisso, 1:30 o forse anche qualche sgarro in più, ma a quei tempi mezzanotte era mezzanotte, si chiama mezzanotte, perché quando vivevano in maniera un po' più civile, noi oggi viviamo malamente, perché la vita civile funziona con i ritmi del sole, quindi cioè, se alza alle 5 e se va a letto alle 8, al massimo alle 9 di sera, quindi mezzanotte era proprio il fondo della notte. E gli dice: amico, prestami 3 pani, perché è giunta da me un amico e non ho nulla da mettere davanti. Gli dice: non mi importunare, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darti. Tenete presente che le case antiche, sapete com'erano, no? C'erano le stuoine per terra, quindi uno dovendosi alzare a aprire la porta quando era mezzanotte doveva passare sopra, capite? Cioè, non sapeva manco, capito, dove andare a camminare, quindi era veramente una cosa fatta malamente. Vi dico che se non si alzerà a dargli per l'amicizia, si alzerà a dargli per la sua insistenza. Su questo continua a bussare, mi sveglia tutta la casa, cioè è meglio che gli do 5 minuti di tempo piuttosto che mi dirocca la casa. E Gesù prende occasione, dice: vi dico, chiedete e vi sarà dato. Quindi 3 occasioni da questa parabola per parlare dell'efficacia della preghiera: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quindi per questo che vi dico, sulla base di questa parabola la Chiesa ha sempre insegnato che quando uno ha una grazia grossa, quindi c'è una grazia grossa da chiedere al Signore, leggete il bollettino qualche volta che la Chiesa sta aperta fino a tarda notte, venite a farvi un po' di veglie, perché le preghiere notturne sono molto efficaci presso il cuore di nostro Signore. Ecco. Poi abbiamo l'altro punto che abbiamo visto e che è nel capitolo 12. Quello sull'avarizia e sulla cupidigia. Uno della folla gli disse: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Problemi antichi, adesso si scannano tra fratelli e sorelle per questioni di eredità. Qualcuno ci ha provato a mettere in mezzo anche nostro Signore. Ma egli rispose: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore tra sopra di voi? Gesù non accetta di entrare in questa cosa. Ne trae però spunto per un ammonimento: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Io dico sempre, perché ci sono comunque delle cose che riguardano la giustizia, perché se tu c'hai un fratello che è prepotente e ti ruba del tuo, dal punto di vista di giustizia sostanziale, nulla questio, puoi agire. Il problema è: vale la pena fare la guerra con mio fratello per ragione di soldi, quindi perdere la pace familiare per me che sono discepolo di Gesù? Questo chiaramente Gesù va oltre la giustizia, capite? Cioè, che cosa è meno peggio? Lo lascio perdere e mantengo la pace, o faccio la guerra, e questa anche giusta, d'accordo? Perché se giusta è giusta, e perdo la pace. Qui la coscienza si deve mettere davanti ricordando queste parole: tieniti lontano da ogni cupidigia, ma goditi pure tutti quanti i soldi che ti pare. A me basta che il nostro Signore mi faccia fare una vita dignitosa, non mi interessa. Certo, non tutti hanno il cuore, la fede e la carità per poter fare una cosa di questo genere, però Gesù ci porta oltre, cerca di farci riflettere, e per questo racconta la paraboletta. Se poi una parabola, la campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto, egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Dice: farò così, demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: ah, anima mia, a disposizione molti beni, per molti anni riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, stanotte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Vedremo che più avanti questo tema lo riprende San Luca nella parabola dell'amministratore disonesto. Lo vedremo la prossima volta. Il tema dei beni e dell'uso dei beni è uno dei pallini di San Luca. Mi sentirete dire tante volte, io ne parlerò spesso: che ci facciamo noi con i beni che il Signore ci ha donato? Capite? Nostro Signore non ci impone, capite? Cioè, la vita cristiana è una vita dove siamo sollecitati, abbiamo già visto durante la predica della messa di questa sera, a muoverci liberamente verso certi orizzonti. La condivisione dei beni, che è un valore, l'elemosina, che è un valore, la facciamo? Che ci facciamo con i beni che Dio ci ha donato? Voi sapete che c'è tutto quanto un ambito della predicazione ufficiale della Chiesa, che è la dottrina sociale della Chiesa, che dice delle cose molto molto chiare. Se tu hai ampiamente al di là di quanto è necessario per vivere, ti devi mettere una mano sulla coscienza, perché forse non ti viene l'esproprio proletario dentro casa, d'accordo? Per questo sarebbe, come dire, una coartazione. Ma tu devi sapere che il nostro Signore ti chiederà come mai ti sei trattenuto tutto per te, non per ragione di misericordia, ma per ragione di giustizia. Perché se tu sai che qualcuno muore di fame, e tu, insomma, l'altro giorno ho saputo dei numeri, insomma, non voglio fare nomi, delle persone più ricche del mondo, cioè, ma voi sapete che questi ragionano in termini di centinaia di milioni di dollari. Ma che ce devi fare? Che fai? Che ce devi fare? Ma manco se ci campassi mille anni per ipotesi, ma manco se tu, cioè, dici: mi prendo tutti i vizi di sto mondo, mi voglio, cioè, ma non ce la fai a consumare, che ce devi fare? Capite? Cioè, questo sono, cioè, quando poi si va in certi posti, a me per esempio è successo di andare un tempo in un paese poverissimo dell'America Latina, sto 40 giorni, si vedono delle cose. A me non piace fare discorsi, come dire, moralisti, mandiamo a rogo i ricchi, cioè, però se vai lì, io capisco anche certe cose, anche a volte anche qualche sacerdote che prende che si arrabbia un pochino, cioè io non condivido molto, però cioè, tu vedi la vita del latifondista e davanti alla vita del latifondista c'è, cioè, sta il ragazzino deperito che veramente sta con il somarello che è rimasto pelle e ossa e che d'inverno con la temperatura vicino allo zero sta in pantaloncini corti e in canottiera e tende la mano, cioè non si possono vedere queste cose, capite? Cioè sono proprio delle cose che stridono. Allora noi non possiamo risolvere i problemi della povertà, anche se sarebbe molto facile risolverlo, l'ho già detto tante volte, capito? Sia a livello di scelte individuali, sia anche a livello di scelte di grossi stati, lo ripeto perché poi queste cose vanno online. Anni fa c'è qualcuno che si divertì a fare un calcolo. Ci sono due calcoli, uno ve lo posso far vedere perché ho le foto qui, uno a livello, diciamo, di stati e uno a livello di singoli. Allora, a livello di stati è stato fatto questo calcolo: se i paesi dell'allora G7 per un anno facessero questo anno sabbatico, anno santo, allora io per un anno non investo nuove risorse in adeguamento di spese militari. Attenzione, la sicurezza nazionale è loro, cioè, non è una cosa, quindi non è che io tolgo le forze dell'ordine, ma non spendo nuovi soldi per gli investimenti nuovi. Lo fanno i paesi del G7 e passano tutti quanti questi soldi ai paesi poveri, non muore più di fame nessuno e ne avanza. Quindi non è vero che nel mondo cristiano. Altra cosa ancora peggio: se nessun essere umano sprecasse il cibo, ho le foto qui, ve le posso far vedere in galleria, un giorno dopo le faccio vedere, sapete cosa succede? Muoiono ogni anno 800 milioni di persone di fame, è una cifra intollerabile, ma se nessuno sprecasse nulla, camperebbero 3 miliardi e 200 milioni di persone, semplicemente non gettando nulla al secchio, evitando gli sprechi. Questi sono numeri, io ci portai ai ragazzi del Proscresima di Borgo San Michele, mostra internazionale sul cibo curata dalla FAO, non da ambienti ecclesiastici, hanno fatto queste stime. Quindi nel nostro piccolo però non possiamo risolvere i problemi, però non sprecare niente, non buttare al secchio niente, facendo attenzione, questo lo possiamo fare. Io dico sempre 15 euro al mese per adottare un bambino del quarto mondo, perché adottare un bambino del quarto mondo costa solo 15 euro al mese. Chi è che non ce l'ha? Capite? I peccati di omissione, adesso non voglio tormentare la coscienza, no? Però fa un po' di opere buone, perché tra l'altro, cioè, dovete sapere che ogni centesimo che noi diamo per queste cose, io lo dico sempre, è l'unico modo per portarsi i soldi dall'altro mondo, Cioè, tu dai 15 euro al mese a un ragazzino, lo fai per un anno, quanti sono? Sono 180 euro, lo fai per 10 anni, sono 1800 euro, guarda che quelle cose lì te le ritrovi nell'altro mondo, perché il nostro Signore ti ricompensa anche un centesimo dato in elemosina. Io queste cose ve le dico non per mettervi un laccio, capito? Ma per darvi una possibilità, perché se tu fai un sacco di elemosine, potendo farle, io conosco, vi assicuro che sono io anche adesso persone anche laiche che danno un sacco di soldi in beneficenza, ma tantissimi, e non lo sa nessuno se non il padre spirituale, basta, non sa niente nessuno, ma ne danno veramente tanti, e che Dio li benedica, ecco, ma non è che Dio li benedice sicuramente, e ne hanno 100 volte tanto che non gli manca assolutamente nulla, cioè si faccia passare la nottata intera a raccontare le storie che raccontano, e non gli manca nulla da un punto di vista materiale, ne hanno qui benedizione e grazie, ne avranno grande ricompensa in paradiso. Cioè, è chiaro che le cose materiali non sono le cose più importanti, però come spesso e volentieri questo pontificato ci ricorda, se muori di fame, sei morto di fame, non è una cosa bella, capite? Ci sono delle situazioni nel terzo e nel quarto mondo, cioè te t'avanzano 200 euro, li mandi in Africa, quelli costruiscono il tetto di una casa, con 200 euro, che noi di una casa ce ne vogliono 2-4 mila euro per rifare se bastano, insomma, no? Lì i numeri sono tutti quanti più, capite? Quello che per noi è niente, per loro è la vita. Ecco, quindi questo è un tema molto caro a San Luca. Beh, adesso torniamo, andiamo a vedere la passione di Nostro Signore secondo San Luca, nella seconda parte. Allora, stiamo nei capitoli 22 e 23. Allora, prima cosa tipica di San Luca, ce l'ha soltanto lui, il pianto che Gesù si fece su Gerusalemme. Se Dio vuole che l'anno prossimo andremo in Terra Santa, già sto facendo un sacco di proclami, insomma, che la Terra Santa, io non posso andare via da Sermoneta senza che ho portato a chi ci vuole andare in Terra Santa, è uno spettacolo unico al mondo. Allora, sul Monte degli Ulivi, sopra il Getsemani, c'è un luogo, si chiama il Dominus Flevit, dove si commemora questo punto. Gesù si avvicina verso Gerusalemme e piange su di essa. In San Luca Gesù piange diverse volte. Uno è questo, dicendo: se anche tu avessi conosciuto in questo giorno la via della pace, ormai è stata nascosta ai tuoi occhi, verranno giorni su di te in cui i tuoi nemici ti cingeranno con palizzate, ti circonderanno, ti stringeranno da ogni parte, raderanno al suolo te i tuoi figli in mezzo a te e non lasceranno in te pietra su pietra. Attenzione, questo è drammatico, lui dice, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. È terribile. Cioè, Nostro Signore ci manda le grazie. Ma tu te lasci sprecare le grazie del Nostro Signore, te le fai scivolare addosso, e che sto qua? Grossi. Gesù piange, quindi vuol dire che tutto quello che sarebbe poi successo, magari Gerusalemme è stata veramente distrutta, tanto dopo Cristo è andato il generale Tito, voi sapete che i romani, la presa di Gerusalemme, lo stato di assedio in cui hanno messo Gerusalemme in Masada, questi sono morti a Masada, l'ultima fortezza che hanno conquistato, li hanno fatti morire di fame, sono tutti quanti ammazzati, perché li hanno messi in stato di assedio, quindi tagliati i ponti, tagliati i vie. Dopodiché Masada era costruita, si sono messi a costruire un piano inclinato, cioè gigantesco, per arrivare sopra. Quando questi hanno visto che i romani avevano finito, si sono ammazzati da soli, perché se entravano i romani te facevano piagne in greco, d'accordo? Quindi i romani, cioè, capite, non ci stava data. E purtroppo Gerusalemme ha fatto una bruttissima fine. Poi, alcuni particolari, andiamo direttamente all'ultima cena. Il Gesù veramente di Luca appare proprio pieno di amore verso gli apostoli e pieno di misericordia. Ancora più, se vogliamo, che negli altri Vangeli. Gesù comincia con questo prequel. Quando venne l'ora, si stese a tavola e gli apostoli erano con lui. Disse loro: ho desiderato di un grande desiderio, letteralmente, di mangiare con voi questa Pasqua prima del mio patire, perché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio. Quindi Gesù che esprime: mangiare questa Pasqua, Dio avrebbe istituito l'Eucaristia, il desiderio ardente che aveva di lasciarsi come cibo agli apostoli, istituire questo sacramento che avrebbe in perpetuo lasciato il memoriale vivo di quello che stava per fare. Voi sapete che l'Eucaristia, l'ultima cena, era il Calvario anticipato, quindi Gesù ha anticipato di qualche ora quello che avrebbe vissuto il giorno dopo, e la Messa è il Calvario perennizzato, testamento d'amore di Gesù. Gesù esprime il suo desiderio ardente di vivere questo. Poi c'è l'annunzio, diciamo, un errore nella citazione. Il capitolo è sempre il 22, i versetti sono i 31-33. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te affinché non venga meno la tua fede, e tu, una volta ritornato, corrobora i tuoi fratelli. Sappiamo tutti quello che sarebbe successo. Nel momento della passione Satana si è scatenato, ha fatto un macello, gli è stato permesso di mettere le mani addosso al Nostro Signore perché c'era lui dietro, e ha fatto un macello nel gruppo apostolico e ha fatto cadere San Pietro. San Pietro ha rinnegato Gesù. Gesù glielo ha predetto, ma ha detto: ho pregato per te perché dopo questo momento di defaillance tu possa ritornare ad adempiere la missione di confermare i tuoi fratelli. Pietro qui risponde in maniera più baldanzosa che negli altri Vangeli: ah Signore, io con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. E Gesù gli fa la famosa predizione, questo perché San Pietro era un buon uomo, San Pietro ci credeva veramente, ma doveva imparare ad essere un pochino più tranquillo, che se Gesù dice una cosa, quello non è un uomo come tutti quanti gli altri, insomma, quindi Gesù sa quello che dice, quindi c'è questo aspetto. Altra cosa tipica e propria di San Luca, le due spade. Disse loro: quando vi ho mandato senza borsa, bisaccia e sandali, vi è mancato forse qualcosa? E si dissero: niente. Cosa sta dicendo Gesù? Era tempo di divina provvidenza, era tempo in cui eravate protetti da nostro Signore. Ora disse loro: ma adesso che una borsa la prenda, e similmente la bisaccia, e chi non la vende il suo mantello ne compri, e compri una spada, perché vi dico che deve compiersi in me ciò che è scritto, è stato annoverato tra gli inimici. Gesù sta dicendo: adesso Dio si ritira e qui rimaniamo a tutto fuori, adesso il diavolo farà il pazzo, quindi sta dicendo: si salvi chi può. Adesso non c'è, state attenti, perché adesso so guai. Ci sono momenti in cui questo accade anche nel corso della storia, anche a volte nella nostra esistenza, e comunque nel corso della storia della Chiesa, secondo la studio, sono stati momenti drammatici. Però questi momenti drammatici, questo si vede ancora meglio nel Vangelo di San Giovanni, sono divinamente disposti. Quindi quando il diavolo ha momenti in cui può fare veramente macelli, bisogna fare un bel respiro, d'accordo, non confidare in se stessi, ma rimanere aggrappati al nostro Signore e aspettare che passi l'onda, perché dopo quell'onda arriva la mattina di Pasqua. Questo è il senso di quello che Gesù sta dicendo e sta trasmettendo. Quindi anche in quei momenti drammatici, anche Satana ha cercato Pietro per vagliarlo come il grano, non ti preoccupare, ho pregato per te, ti riprenderai, d'accordo, però sappi che passerai per questo momento di buio. Attenzione, al Getsemani c'è un'indicazione fondamentale che purtroppo, ecco, gli apostoli non hanno ottemperato. Solo nel Vangelo di Luca, in tutti i sinottici, si porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e dice: restate qui, mi raccomando. Ma qui c'è una particolarità, gli dice: pregate per non entrare in tentazione. Quindi quando arriva la fine del mondo, noi abbiamo solo una possibilità: la preghiera. Non so, adesso faccio una parentesi. Sapete che la Madonna ci ha scritto un libretto pubblicato anche in forma cartaceo, l'unico che è stato pubblicato fino adesso, che sono le apparizioni di Maria. Io ho fatto uno studio di tutte quante le apparizioni mariane degli ultimi due secoli riconosciute dalla Chiesa. Qual è la cosa che la Madonna dice sempre? Io voglio diventare un'anima mariana. Ah, se vuoi, io dico, se vuoi un'anima, diventare un'anima mariana, comincia ad ammettere l'anima in pace, che c'è da pregare tanto, d'accordo? Proprio tanto. Dice sempre: pregate, pregate, pregate. Se sembra che non sappia di altro. Perché quando arriva lo scatenamento del diavolo, quindi quando Dio gli permette anche di fare tante cose, c'è solo una via uscita. E Gesù stesso l'ha fatto. Cavato Gesù, è andato al Getsemani, è stato 3 ore al Getsemani a pregare, a combattere, ha dovuto passare per questa cosa e è uscito vittorioso da questo momento, altrimenti non ce l'avrebbe fatta a portare a termine la passione. Pregate per non entrare in tentazione. E come prega Gesù? Continua. Ed egli si allontanò da loro quanto un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava. Soltanto San Luca dice questo particolare: preghiera in ginocchio, quindi una preghiera dove tutto il corpo, cioè dove una preghiera partecipata. Gesù sta proprio pregando, che quando noi preghiamo in ginocchio stiamo proprio supplicando Dio che ci dia una mano, e prega: Padre, se vuoi allontana questo calice da me, tuttavia non la mia volontà ma la tua sia fatta. Il Vangelo dice proprio: deve svolgere, cioè Gesù è venuto al mondo per questo, d'accordo? Lo dice nei Vangeli. L'opera principale non è quello che ha compiuto nei 33 anni prima, ma è la passione e la morte. È che in quel momento, vi ricordate cosa disse Satana nel quarto capitolo? Esaurito ogni genere di tentazione, se ne andrò per tornare al momento opportuno. Questo è il momento opportuno. Questo è il momento opportuno. A Gesù non l'ha fatto secco, agli apostoli l'ha fatto secchi tutti quanti. Perché? Perché li trovò addormentati, assopiti dalla tristezza. E gli dicevano un'altra volta: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. La preghiera del Padre Nostro, non ci indurre in tentazione. San Luca è l'unico che nota altri due particolari. Primo, che Gesù nella preghiera suda sangue. Giunto all'agonia pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che scendevano per terra. Quindi l'intensità della preghiera, il combattimento tremendo, questo ci fa anche comprendere quanto in certe situazioni la preghiera diventa veramente un combattimento forte. La preghiera è sempre un combattimento, eh? Ricordate sempre, quando una persona si mette in testa di pregare un pochino avrà 100.000 difficoltà e 100.000 tentativi di portarti lontano, no, specialmente in certi momenti. Quindi Gesù, che abbiamo visto in tutto il Vangelo, lo vedremo ancora pregare in momenti particolari, soprattutto prega al momento della passione. Poi c'è un particolare che riguarda il rinnegamento di Pietro, anche questo sottolineato soltanto da Luca. Pietro rinnega Gesù, nega di conoscerlo, giura il falso, spergiura. Gli altri evangelisti dicono che a un certo punto si pente, ma perché si pente? Gesù lo guarda, lo sguardo di Gesù. Cosa sarà stato quello sguardo di Gesù? Cosa ha visto Pietro in quello sguardo? Questo si fa anche comprendere quanto è importante anche come noi guardiamo le persone. Sapete che lo sguardo è un grande strumento di comunicazione. Essendosi voltato, il Signore guardò fisso Pietro. Proprio quando Pietro stava dicendo l'ultimo rinnegamento: uomo, non so quello che dici, io non lo conosco, non so di cosa stai parlando. Guarda Pietro, Pietro si ricorda delle parole del Signore e piange amaramente. Quindi è uno sguardo doloroso, ma certamente uno sguardo in cui dice: io lo già lo sapevo e già l'ho perdonato. Te l'avevo detto. Quindi non è uno sguardo inquisitore, non è uno sguardo di condanna, ma è uno sguardo che accarezza con la misericordia anche mista al dolore. Attenzione, San Luca è l'unico evangelista che ci informa che Pilato, durante il processo, manda Gesù da Erode nel tentativo di causarne la liberazione. Vedremo la prossima volta che San Luca ci dà alcuni particolari inerenti alla figura di Erode e riguardanti già la missione pubblica di Gesù, per far capire che tipo di personaggio c'era. Gesù davanti a Erode non dice una parola, neanche una. Con Pilato un pochino ci parla, anche con i sommi sacerdoti un pochino ci parla, con Erode non dice nemmeno una parola. Lo interrogava con molte parole, ma egli non rispose nulla. Dopo averlo disprezzato, Erode con i suoi soldati lo schernirono e lo vestirono con un abito splendido, rimandandolo da Pilato. Perché Gesù con Erode non ci parla? Perché Erode era un uomo completamente, non aveva nessunissima intenzione, e quello che dicono gli interpreti più autorevoli è che si è messo a, si capisce, no? Erode, vedendo Gesù, voleva vederlo perché aveva sentito parlare di lui e sperava di vedere qualche miracolo. Quindi lo pensava che fosse un istrione, che dice: dai, fammi qualche miracoletto. Questo si vede un pochino nella passione di Mel Gibson, no? Quando dice: guarda questo, ah, tu guarisci i ciechi, fammi vedere un miracolo. E Gesù, se ti metti su queste frequenze, non ti parla proprio. Quindi Dio si chiude quando uno lo si mette a trattare come il giullare della situazione. Certamente Dio è buono, ma non possiamo metterci a parlare con il Padre Eterno come se stiamo parlando con un buffone di turno, insomma, no? Dio non entra in queste dinamiche e rimane semplicemente nel silenzio. Attenzione, Sempre Luca, e questo è un tema caro perché i pagani fanno più bella figura degli ebrei, è l'unico che dice che Pilato a un certo punto esce e lo dichiara proprio innocente Gesù, anche se poi non ha avuto il coraggio di prendere le conseguenze. Ma Pilato, convocato i gran sacerdoti, quando Gesù torna da Erode, dice: avete portato a me quest'uomo come un sovvertitore del popolo, l'ho esaminato dinanzi a voi, non ho trovato in quest'uomo nessun motivo di condanna di quello accusato, neppure Erode infatti ce l'ha rimandato, niente di degno di morte è stato fatto da lui, dunque dopo averlo castigato lo rilascerò. E non lo rilascia semplicemente poi per la paura della sobillazione fatta sempre dalle autorità giudaiche, ma secondo Luca Pilato aveva deciso di liberarlo in maniera esplicita, perché pur essendo un pagano si era accorto che quest'uomo comunque non aveva fatto nulla che meritasse la morte. La Via Crucis, le vie donne di Gerusalemme, noi le ricordiamo durante la Via Crucis perché ce lo dice San Luca. Nel capitolo 23, al versetto 27-32, ci riporta questo particolare. Gesù è incamminato sul Calvario, lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si batteva nel petto, e Gesù disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli, eccetera eccetera, perché se trattano così il legno verde, cioè io, cosa avverrà del legno secco? Attenzione, questo è il tema delle donne. Il tema delle donne è un tema caro a San Luca. Le donne che seguono Gesù, gli apostoli sono scappati tutti, chi segue Gesù sul Calvario? Le donne. Anche nelle nostre parrocchie attuali, se non ci fossero tante donne che portano avanti la carretta, capite? C'è questa sorta un po' particolare. Lo vedremo anche la prossima volta, perché anche nella risurrezione stanno le donne protagoniste. Vedremo che San Luca dà delle particolarità del tutto specifiche. Le parole di Gesù in croce. Gesù è il misericordioso nel Vangelo di Luca. La prima parola che dice Gesù in croce è: Padre, perdona loro, ed è la prima parola che storicamente Gesù ha detto. Il perdono ai suoi nemici. E poi soltanto San Luca ci riporta l'episodio del buon ladrone. Buon ladrone, secondo te canti la scena, Gesù ricordati di me nel tuo regno, noi ci sta bene che stiamo qua, lui non ha fatto niente di male, mentre quello cattivo lo insultava, e Gesù canonizza il primo santo, la canonizzazione del primo santo, il resto le fa la Chiesa, ma il primo l'ha fatto lui, perché ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Ecco. Voi sapete che quando una persona è canonizzata, noi sappiamo sicuramente la persona canonizzata all'inferno non ci sta, d'accordo? Su questo la Chiesa non si sbaglia. E anche l'ultima parola che dice Gesù. Gesù muore serenamente: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, dopo aver compiuto la missione che il Padre gli aveva donato. Questa è le particolarità del Vangelo della passione di Gesù secondo Luca. La prossima volta, se Dio vuole, finiamo la seconda parte, saremo in tempo di Pasqua, quindi vedremo come San Luca ci presenta i racconti della risurrezione. Beh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli. Rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.